perfetto mondo. Yeah, I've taken it for about a week and a half now, and I'm still here. Sulle parole del nostro Trump quotidiano diamo il buongiorno a Giulia. Ciao Giulia Crivelli, come va? Ciao Alessio, sì, ti dirò, queste appunto sono parole pronunciate lunedì e mentre le ascoltavo lunedì sera, sapendo che non ci sarei stata ieri, dicevo vabbè, per una volta ci mancherà il nostro Trump quotidiano, peccato, tutto sommato è una di quelle sorprese che ci fa Trump. E invece no, le ascoltiamo perché sono lui in questo pochi secondi ha detto quello che credo tutti ormai sappiano, cioè che sono circa 2 settimane che prende l'idrossiclorichina e che, come ha detto, e sono ancora qui. E per ora uno potrebbe aggiungere, solo una battuta, però insomma, no, perché gli effetti collaterali ci sono sicuramente. Poi, vabbè, insomma, adesso raccontaci bene questa vicenda che ha fatto molto discutere, il fatto che lui prenda queste pasticche, ha detto da una settimana, se ho capito bene, no? Sì, il tema appunto, sì, probabilmente è stata una sorpresa durante questa conferenza stampa, però è stato immediatamente l'argomento di tutti i network, di tutti i giornali, cioè sulle pagine di ieri e c'è sulle pagine di oggi dei giornali americani, perché in teoria la posizione dell'FDA, cioè la Federal Drug Administration, che equivale un po' alla nostra agenzia del farmaco, cioè autorizza la messa sul mercato e soprattutto il tipo di malattia per la quale un farmaco può essere usato, e anche il CDC, che è il centro del controllo delle malattie, e anche l'istituto diretto da Anthony Fauci hanno sempre detto che è un farmaco che ha comunque effetti collaterali anche quando viene usato per curare la malaria, il lupus o l'artrite reumatoide, e che soprattutto per il Covid non c'è alcuna dimostrazione che serva. Ma Trump ieri ha voluto rincarare la dose, se vuoi sentiamo quest'altro breve audio. Sentiamo. And if you look at the one survey, the only bad survey, they were giving it to people that were in very bad shape. They were very old, almost dead. It was a Trump enemy statement. Now, if you look at some of the reports that came perché out from la domanda che gli ha fatto un giornalista è: scusi, però noi sappiamo che tutti gli studi sull'utilizzo di questo farmaco per il Covid hanno dato risultati molto deludenti. E lui qui risponde: no, io lavoro con i medici tutti i giorni. E immaginate un medico che debba dire: no, presidente, non prenda questa medicina. Come può reagire Trump se ha deciso di prenderla? E soprattutto dice: questo studio è un tipico studio anti-Trump, questo che dice che non va bene questo farmaco, perché le persone alle quali era stato dato erano almost dead, comunque erano già praticamente morte. Sì. Allora, la questione è naturalmente, tocca, secondo molti commentatori, è l'ennesimo diversivo, se vogliamo, di Trump, perché ieri, ancora ieri, la curva non si sta stabilizzando. C'è effettivamente un'idea per cui lui è in difficoltà e quindi cerca di buttare la palla, come dire, in calcio d'angolo. Va anche detto però sulla clorochina, siccome abbiamo parlato molto anche noi, che usata come dice Trump non ci sarebbero prove, cioè in maniera preventiva, ma usata poi per curare in una fase, diciamo, semiacuta la malattia, invece la sta usando anche l'Italia. Io propendo per una teoria di un Trump, come dire, di un tecno-Trump, che porta alle estreme conseguenze l'America potenza tecnologica, no? E quindi lui gli piace giocare sempre a rilanciare. Questo potrebbe essere anche un modo per vederla. Certo, il tema poi naturalmente è quello economico. Tra l'altro Trump nei prossimi giorni farà alcune visite ufficiali in alcune fabbriche dove, hanno sottolineato i giornali, sarebbe obbligatorio l'uso della mascherina, e vedremo se per la prima volta dall'inizio di questa emergenza sanitaria lo vedremo con la mascherina. Con la mascherina si è presentato ieri il segretario al Tesoro Mnuchin, che ha di nuovo ribadito in una sessione plenaria infinita di cui danno conto tutti i quotidiani, dal Wall Street Journal al New York Times, ha risposto alle domande dei senatori, perché per esempio la senatrice Warren, che sappiamo era candidata del Partito Democratico a sfidare Trump Trump poi si è ritirata e ora sostiene Biden, gli ha detto chiaramente come facciamo a garantire che le aziende che hanno già ricevuto o riceveranno fondi extra non licenzieranno, perché il tema naturalmente, questo tema dei 30 e passa, probabilmente giovedì supereranno i 35 milioni di persone che hanno chiesto un sussidio, che sono senza assicurazione sanitaria, e Mnuchin ha sostanzialmente detto no, io di nuovi pacchetti di aiuti in questo momento non ne abbiamo sul tavolo, e su questo invece è intervenuto il presidente della Federal Reserve Powell, che invece ha detto la Casa Bianca deve fare di più. E qui, secondo il New York Times, ma anche il Wall Street Journal, c'è questo curioso scambio di ruoli. Sappiamo quante volte, sì, Donald Trump aveva chiesto alla Fed di essere più proattiva, di agire, naturalmente prima dello scoppio dell'epidemia, di agire per esempio sui tassi di interesse, e Powell aveva sempre detto no, sono già bassi, va bene così, e adesso è Powell che dice alla Casa Bianca dovete cominciare a pensare a un ulteriore pacchetto di stimoli, perché questa crisi economica non sappiamo prevedere se avremo una ripresa a U, una ripresa a V, cioè una ripresa molto rapida. Vedremo insomma nei prossimi giorni se Trump magari passerà, come dicevi tu, dal sottolineare le novità mediche e tecnologiche invece a parlare di nuovo di economia, anche perché nel frattempo si discute anche lì, per esempio, della riapertura delle scuole, soprattutto dei college. Ah, questa è un'altra coltellata nel fianco mio e di tutti quelli che aspettano che succeda qualcosa in Italia, la riapertura delle scuole lì, ma anche in Corea, mi segnali, vero? Sì, Wall Journal proprio mette in prima pagina questa foto di tutti gli addetti che sanificano tutte le aule, perché lì i banchi non sono particolarmente distanziati, ulteriormente diciamo distanziati rispetto a prima dell'epidemia, sono comunque tutti distanziati nelle aule coreane, e poi c'è stata questa grande sanificazione, quindi le scuole riprendono. Anche nel Regno Unito la British Medical Association, ne danno notizia tutti i giornali oggi, ha fatto un po' marcia indietro, forse per non sembrare così fiancheggiatrice dei sindacati, che invece, come abbiamo visto, non sono contrari a questa riapertura dal 1 giugno, ha detto no, se ci sono le misure di sicurezza, tra le quali la sanificazione, si può aprire, e pare che anche Boris Johnson sia sempre più orientato verso una riapertura per il 1 giugno, ma molto nebulosa ancora, quindi la spina del fianco ce l'hanno anche gli inglesi. No, certo, ce l'hanno tutti, quello che noi non abbiamo è avere fatto delle scelte in modo da mandare avanti i più piccoli, ipotesi come fa la Francia, oppure chi deve fare l'esame come sta facendo la Germania da più di un mese. Noi, per non far male a nessuno, non facciamo niente per nessuno, però questo è un po', diciamo, il rammarico. Comunque, Giulia, dove altro ci stai parlando della Gran Bretagna, notizie però anche dagli altri paesi? Sì, ti porterei in Francia, perché invece lì, lo ricorderete, proprio prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria, anche se era chiaro che anche in Francia sarebbe stato un problema il Covid, non era ancora pandemia per l'OMS, ricorderete si votò per il primo turno delle municipali, il sindaco Come di no, Parigi, certo, e altri molti, e poi si disse anche che era stata una scelta molto sbagliata e poco prudente, e adesso si parla invece proprio dicendo ma se hanno riaperto le scuole perché non possiamo votare, e quindi il consiglio scientifico, il comitato scientifico a giorni dovrebbe dare un suo parere ufficiale per vedere se si può tenere questo secondo turno, quasi certamente insomma in giugno probabilmente, quindi questo è un altro tema. Mi spieghi che anche riguarda solo la Francia. Sì, scusa Giulia, mi spieghi anche questa foto che ci segnali sulle Figaro, che riguarda l'Italia in trattoria? Guarda, io sono sempre, naturalmente sono anche molto critica quando c'è da criticare, però questo pressapochismo nel raccontare i fatti nostri, vi dico questo, c'è la foto di una signora che sorseggia un calice di vino seduta a un tavolo in piazza di Spagna, sì, e il titolo è dopo tutte le settimane di lockdown l'Italia si riscopre il piacere delle trattorie, ma adesso forse dovremmo spiegare come se fosse una colpa in qualche modo, eh? Esatto, e poi insomma si tratta di semplicemente del fatto che hanno riaperto i locali dove si può mangiare qui appunto all'aperto, e quindi mi sembra così la solita semplificazione, ecco, come gli italiani che non vedevano l'ora di tornare a gozzovigliare. Esatto. Va bene, che poi è il motivo per cui vi piace venire anche in Italia a tutti. Senti, ancora un minuto, Germania? Sì, la Germania secondo me è molto interessante, da una parte perché comunque c'è il tema delle vacanze, oggi la Welt per esempio pubblica la foto di un bambino in un parco acquatico e non è chiaro se per esempio i parchi acquatici della Germania, ce ne sono di bellissimi sui laghi tedeschi, potranno riaprire e con che restrizioni. E poi però c'è anche questo tema, perché oggi è mercoledì, ma sabato quasi certamente ci saranno altre manifestazioni e tutti i quotidiani si interrogano su questo fenomeno di queste manifestazioni, alcune sono dell'estrema destra, ma non solo, anche dei verdi, anche di strani gruppi, ci sono anche i Novax in versione tedesca. E ho trovato interessante una riflessione della Süddeutsche Zeitung dove dice: sì, perché molti di questi sono negazionisti, cioè pensano a vari tipi di complotto. La Bild dice: il governo approfitterà di questo lockdown per rendere illegale la prostituzione, tanto per dirti. E quindi si interroga su questi sprazzi di irrazionalità dai tedeschi, che conosciuti invece, okay, e anche ammirati per esempio per la razionalità con la quale hanno gestito la crisi. Grazie mille Giulia, ci risentiamo domani con te, con Giulia domani. Crivelli, naturalmente l'appuntamento è con Effetto Giorno, sempre per domani, per la puntata di oggi, con Peter Bescapè in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi, ciao, buona giornata, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento.